vi prenderemo e vi condurremo per un percorso che vi aiuterà a scegliere magari buoni film e buoni libri da leggere durante quest'estate. Soprattutto per il nostro benessere, perché è questo che vogliamo fare, prendere spunto dalle occasioni che la nostra quotidianità ci offre, pensiamo ai vacanzieri ma anche alle persone che stanno ancora lavorando, e accendere pensieri, come dici tu. A volte possono nascere dall'ascolto di un brano musicale, si possono ritrovare vedendo un film oppure tra le pagine di un libro. Esattamente, proprio così. E noi saremo come dei prezzemolini. Va bene, e cosa ne dici allora? Partiamo. Partiamo dalla prima voce. Alberto, che voce, ma il commento è un po' banale detto così, in effetti. Allora, questa voce è di una cantante che si chiama Julia Fordham, è una cantante inglese che io ho scoperto negli unici 6 giorni della mia vita in cui sono stato in Giappone. Ero a Tokyo, ho sentito questa voce, questa musica, e immediatamente ho cercato di capire di chi fosse. Scopro che è di Julia Fordham, e poi scopro anche che questa bravissima cantante ha scritto delle canzoni meravigliose, ma fondamentalmente, questo non me lo sarei mai aspettato, un po' in Inghilterra, un po' in Giappone l'hanno scoperta, dopodiché l'hanno tutti dimenticata, nonostante lei ci abbia provato e riprovato. E quindi quello che presumo è che davvero anche lei non si fosse mai aspettata di non riuscire ad arrivare. Per me la domanda è stata questa: le sue canzoni sono davvero splendide, come mai non hanno fatto breccia nel cuore del pubblico? Io le trovo bellissime. Se voi riuscite a recuperarle con YouTube, con internet, questo è già un primo buon consiglio che vi diamo per quest'estate. E questa voce ci porta alle immagini di un film. E il film di oggi è bellissimo. Io credo che qualcuno di voi l'abbia già scoperto. Se non l'avete fatto, recuperatelo. Il film è In un mondo migliore di Susan Bier. Ha vinto tutti i premi che poteva vincere, sì. Non ultimo l'Oscar come miglior film straniero. E ascoltiamo il trailer. Elias! Papà! Che bello rivederti. L'assenza del padre è un grosso problema per lui. E se poi a questo aggiungiamo i problemi fra voi due... Quali problemi? Che vuoi dire? Spiegati. Ragazzi, vi presento Christian, un nuovo compagno. Sono fiero di te, anche la mamma lo sarebbe. Non serve che mi parli così, papà. Se ti fai scappare qualcosa, sei morto, capito? Avrebbero pensato tutti che sono un vigliacco. Se tu lo picchi, lui ti picchia. Poi lo picchi tu e va avanti all'infinito, come una guerra. Non se colpisci duro la prima volta. Perché litigate? Tu non toccare mio figlio. Non farti più vedere. Vattene via! Quel bastardo se lo merita. Sono d'accordo. Fantastico! Non possiamo stare qui, è proibito. È lui, l'uomo che ha picchiato tuo padre. Alberto, un film di grande successo che noi suggeriamo in questo percorso di arte e terapia ai nostri ascoltatori, in modo particolare a chi? Ma questo è un film intanto per ogni uomo e donna adulta, per molti per tutti i genitori, e direi che questo è un buon film da vedere anche con i figli, soprattutto con i figli preadolescenti e adolescenti. È la storia di un medico che lavora in Africa, che vive per la non violenza, per la pace, per la solidarietà, per la cooperazione. Torna in patria e trova un figlio che è diventato amico di un ragazzino che arriva nella sua scuola dopo un lutto molto molto grave. Costruiscono una solidarietà e una cooperazione contro tutto il resto del mondo, che li fa diventare vittima di bullismo. E è un film bellissimo perché la violenza viene prima raccontata in astratto, poi in concreto, e questo papà, che crede davvero nella non violenza, si trova a dover gestire una situazione molto molto complessa. Quando meno te l'aspetti, è perché il mondo, quel mondo migliore che avevi sognato, per cui stai vivendo e lavorando, in realtà ti si rivolta contro, e sembra che ti cambi dal di dentro tutto il tuo mondo di pensieri, di valori e di ideali. Un film bellissimo di cui... Che ci dà lo spunto anche per pensare alle nostre storie personali, anche a tutti noi sarà capitato di dire: ecco, non me lo aspettavo proprio, nel bene e nel male. Nel bene e nel male, ecco, direi che questa poi tua sottolineatura è quella che probabilmente potete tenere da cornice di sottofondo per tutto il film. Nel bene e nel male è un film dove la lotta tra il bene e il male torna e ritorna in ogni situazione, in ogni personaggio. Un film davvero, davvero intenso. Alberto, abbiamo promesso però anche un libro. E questo sarà un po' lo schema che adotteremo in ogni nostro incontro di arte terapia. E quindi io direi che chiudiamo con l'incipit del libro che tu hai scelto oggi per noi. Mettimi giù! Ringhiò il bambino. Harry lo mise a terra. La faccia del bambino era diventata scura di rabbia. Ugo alzò un piede e colpì selvaggiamente Harry a uno stinco. Hector aveva ancora in circolo l'anfetamina, gli si erano drizzati i peli sul collo. Hector vide il braccio di suo cugino alzarsi e fendere l'aria, poi il palmo della mano abbassarsi e colpire il bambino. Lo schiaffo sembrò echeggiare nell'aria, incrinò il crepuscolo. Il ragazzino alzò gli occhi, scioccato, seguì un lungo silenzio. Era come se Ugo non riuscisse a capacitarsi di quello che era appena successo, del fatto che il gesto dell'uomo e il dolore che provava coincidevano. Il silenzio fu rotto. Una smorfia si disegnò sul volto del bambino, ma stavolta non ci fu nessun piagnisteo. Le lacrime cominciarono a sgorgare, in silenzio. Ci fu un urlo e Rosy, facendosi largo fra i due, si precipitò a prendere in braccio il suo bambino. Lei e Gary urlavano, insultavano Harry, che era indietreggiato fino al portellone del garage, e sembrava anche lui sotto shock. I bambini osservavano la scena incantati. La faccia di Rocco trasudava orgoglio. Hector sentì di avere accanto Aisha e sapeva che, in quanto padrone di casa, doveva assolutamente fare qualcosa. Ma cosa? Alberto, è un libro che tu hai scelto a chiusura del nostro percorso di arte terapia, si intitola Lo schiaffo. È di Tsiolkas, di Christos Tsiolkas, è un autore australiano, è un libro che lascia il segno a partire dal titolo, perché nelle prime pagine tutto si prepara per un barbecue meraviglioso dove arriveranno parenti, amici di diverse provenienze razziali, di diversa cultura, di diversa appartenenza. Tutto apparentemente e formalmente è perfetto. E quando meno te lo aspetti arriva uno schiaffo, che è proprio quello che abbiamo ascoltato nella storia, che cambierà per intero le vicende di tutti. Quindi questo è lo spunto di riflessione con cui vogliamo chiudere il nostro percorso di arte terapia, ma come sempre dagli spunti noi diamo poi un'indicazione concreta, quasi un esercizio da fare da soli o insieme con le persone che abbiamo vicino, con i nostri figli. Ma direi che l'estate è proprio il tempo del quando meno te l'aspetti, si esce dalla routine e ogni giorno può essere l'occasione per scoprire qualcosa che è lì e che quando meno te l'aspetti può entrare nella tua vita. Ma troppe volte noi entriamo nel tempo delle vacanze con gli stessi occhi e lo stesso sguardo del tempo invece del lavoro, del tempo feriale. Per cui tenete questo motto: quando meno te l'aspetti. Andate alla ricerca di quel quando meno te l'aspetti che già da oggi probabilmente vi sta venendo incontro. E a proposito di quando meno te lo aspetti. Io vi aspetto domani dopo il GR delle 11, e quindi passatevi una buona giornata. Un saluto da Nicoletta Carbone ed Alberto Pellai.